Il punto di Stefano Folli. È difficile credere che un evento senza precedenti come le dimissioni di un Papa non abbia influenza sull'Italia a meno di 2 settimane dalle elezioni. La campagna ne è già oggi influenzata e del resto quello che avviene in Vaticano storicamente ha sempre avuto conseguenze sull'altra sponda del Tevere. L'influenza diretta sulle vicende politiche era già ridotta a poco o nulla con Benedetto XVI e prima con Giovanni Paolo II, ma il voto dei cattolici è comunque sensibile agli avvenimenti d'oltretevere. E poi più banalmente c'è l'intreccio delle scadenze, un vero e proprio ingorgo fra costituzione del Parlamento, trattative per il governo politico e la nuova maggioranza, elezione del capo dello Stato, il successore di Napolitano, da un lato, e il conclave con tutti gli avvenimenti che ne seguono, dall'altro. Insomma, qualcosa che cambierà insieme il volto dell'Italia e della Santa Sede.